America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. I think it's about leadership, and the speaker was given an opportunity to be the leader of our party in 1994, and at the end of 4 years he had to resign in disgrace. Mitt Romney, lo sentite, aggressivo nella voce, sta partecipando alla campagna elettorale americana, ha annunciato che domani ci sarà un rally della vittoria con John Boehner, il presidente della Camera, un rally della vittoria in Florida. In realtà Romney non ha molto da stare allegro, perché i sondaggi lo vedono in svantaggio al 46,6% contro il 48,7% per Barack Obama. L'umore dell'opinione pubblica è sicuramente a vantaggio del presidente in questo momento, anche dal punto di vista economico. Ecco però che questa settimana sarà una settimana chiave per confermare o smentire questo scenario. Perché? Perché il 3 ottobre si terrà il primo dibattito presidenziale e ve lo anticipo, questa sarà la settimana del dibattito presidenziale. Ne parliamo ampiamente oggi, ne riparleremo mercoledì, il giorno del dibattito, ne riparleremo giovedì quando vi daremo i risultati. E la domanda di fondo è: riuscirà Mitt Romney ad approfittare di questo dibattito per ribaltare la situazione? Diciamo che ci sono molti dubbi, ma un piccolo problema Barack Obama ce l'ha. Sentiamolo. Yesterday, four of these extraordinary Americans were killed in an attack on our diplomatic post in Benghazi. Avete sentito il presidente che parla dell'attacco alla missione diplomatica a Benghazi, dove sono stati uccisi tre americani, incluso l'ambasciatore Stevens. Ecco, attorno a questo attacco si è sviluppato un caso, è diventato il Benghazi Gate. Perché? La spiegazione è molto semplice, perché Barack Obama aveva un punto di forza che era la politica estera. A un certo punto ci si è resi conto che in questo attacco, che alcuni definivano coordinato contro le ambasciate americane all'estero, e questo attacco violento a Benghazi, sono emersi vari problemi, vari buchi nella gestione di politica estera e soprattutto nella gestione della sicurezza da parte di questa amministrazione. Il primo è un buco che riguarda la sicurezza vera e propria, la protezione che era garantita ai diplomatici. Abbiamo saputo dal diario dell'ambasciatore Stevens, che è stato ucciso a Benghazi, che aveva chiesto maggiore sicurezza, non si trovava al sicuro. Abbiamo appreso pochi giorni fa che l'America spendeva per la sicurezza a Benghazi $387,413. Una cifra che può sembrare elevata in termini assoluti, ma che è irrisoria dal punto di vista della sicurezza. E dunque che è successo? È successo che l'amministrazione, davanti a questo sviluppo improvviso, negativo, drammatico, tragico naturalmente per la morte dei diplomatici americani, ha preso una posizione poco trasparente. Sentiamo. In addition, David, what we're seeing across the region is a yearning for change, a hunger for political reform, economic reform, economic opportunity, greater representation, and we support that. Avete sentito Susan Rice, che è il capo della missione diplomatica alle Nazioni Unite per gli Stati Uniti. Susan Rice ha un grado di ministro, quindi siede nelle riunioni di consiglio del presidente Obama, e parlando con David Gregory un paio di settimane fa disse quello che nessuno si aspettava, e cioè che le manifestazioni a Benghazi erano delle dimostrazioni spontanee. Non c'era nessun complotto, ovviamente l'amministrazione stava ancora studiando la situazione, ma non si riteneva che ci fosse un coordinamento dal punto di vista del terrorismo e soprattutto dal punto di vista di diciamo così, un rapporto con Al-Qaeda. Su questa posizione Hillary Clinton è stata molto più sfumata, poi anche lei a un certo punto è intervenuta. Sentiamola. All over the world, every day, America's diplomats and development experts risk their lives. Ecco, ho fatto ascoltare uno stralcio di un discorso di qualche giorno fa di Hillary Clinton, in cui sottolineava quanto i diplomatici americani in realtà non sono soltanto dei sedentari impiegati, ma sono delle persone che rischiano la vita al fronte ogni giorno, e ricordava che nell'ingresso del Dipartimento di Stato ci sono appunto i nomi di coloro che sono caduti al servizio del paese. La Clinton si era tenuta anche lei più sulle generali, ma senza assumere una posizione così marcata come quella di Susan Rice. E a cambiare improvvisamente la prospettiva è intervenuto Sean Turner, il portavoce della CIA, il quale un paio di giorni fa ha finalmente chiarito che dal punto di vista americano, dal punto di vista della CIA, l'attacco a Bengasi è stato un attacco terroristico deliberato e organizzato. L'idea è che dietro questo attacco ci sia Ansar al-Sharia, che è un'organizzazione islamica, estremista islamica, molto armata, con collegamenti con Al-Qaeda. Si è concluso che il video, che è stato magistralmente distribuito poco prima dell'11 settembre, sia stato distribuito sotto il coordinamento di qualcuno, presumibilmente Al-Qaeda, e che le dimostrazioni cosiddette spontanee, esplose un po' dappertutto, fossero in realtà coordinate. Ecco, non è chiaro se Al-Qaeda avesse dato ordini di attaccare e uccidere Ansar al-Sharia, oppure se questa è stata una decisione autonoma da parte di questa organizzazione estremista, ma resta il fatto che il coordinamento a questo punto si dice che ci sia stato. La domanda di fondo è perché l'amministrazione Obama non lo ha detto subito, e la risposta è di tipo politico elettorale. Obama è forte in politica estera, ammettendo che la sua struttura di servizi e di Dipartimento di Stato non aveva anticipato uno sviluppo di questo genere, non aveva fornito l'adeguata protezione in sede diplomatica, soprattutto a quella di Bengasi, ecco, improvvisamente il fianco sulla politica estera diventava vulnerabile. Ed è su questo che Mitt Romney attaccherà con violenza mercoledì. La difesa di Obama dovrà essere convincente. Il presidente naturalmente ripeterà che lui ha ucciso Osama Bin Laden, che ha diminuito di molto la forza e l'efficacia e l'efficienza di Al-Qaeda. Ma questo sarà uno dei punti deboli, ve lo segnalo, nel contesto dei lavori preparatori a questo dibattito centrale per le elezioni americane. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, io la dedicherei a Beyoncé, perché le cronache rosa americane ci hanno anticipato che forse aspetta un bambino. Sarebbe il secondo nastro, non sappiamo se rosa o azzurro, in casa della signora Beyoncé. Dunque a lei dedichiamo questa canzone del giorno, I Care, uno dei suoi più grandi successi. I told you how you hurt me, baby, but you don't care. Now I'm crying and deserted, baby, but you don't care. Ain't nobody tell me this is love, but you're immune to all my pain. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!